Abbiamo trovato una situazione di evidente sovraffollamento, una situazione che regge perché ancora si riescono a garantire tempi di permanenza piuttosto brevi. Si parla per gli adulti di una rotazione di 15 giorni circa. È una situazione in cui, se si dovesse passare anche solo a un mese e mezzo di permanenza, la mia valutazione, anche conoscendo esperienza analoga, è che esploda immediatamente, perché appunto le condizioni sono di sovraffollamento evidente. Un discorso a parte meritano i minori, che sono attualmente 80, di cui non è nemmeno chiaro se sia garantita a tutti la possibilità di alloggiare separatamente dagli adulti, i quali certo da un lato viene garantita in termini di camerate una condizione migliore, ma dall'altra parliamo di tempi di permanenza anche di 10 mesi. Se voi considerate che i minori qui dentro di fatto non dovrebbero proprio starci, voi pensate cosa possa significare a 16 anni arrivare qui e a tempo indeterminato, nel senso che nessuno ti dice per quanto ci rimani, essere bloccato in un posto simile. Tra l'altro aggiungo che i minori ci dicono che di fatto sono anche impossibilitati spesso a uscire dalla struttura, perché per loro non è possibile uscire nei giorni in cui ci sono trasferimenti, e i trasferimenti ci sono quasi tutti i giorni. Voi cosa chiedete? C'è stato un incontro con la prefettura nei giorni scorsi proprio sul tema dei minori. Guarda, noi chiediamo che si ritorni al ripristino della legalità. La legalità in questo paese dice che i minori non devono stare in posti del genere, che il comune si deve fare carico in prima battuta di trovare una soluzione. D'altronde, se ci pensate, sembra assurdo che un posto come l'Emilia Romagna non riesca a trovare una soluzione per 80 minori non accompagnati e costringa alcuni di loro a stare qui dentro per mesi e mesi. Ripeto, qui per mesi e mesi non si può stare, cioè non è una condizione in cui si possa stare. Il fatto che siano diventati 900, un anno fa erano 300, fa sì che ad oggi non ci sia più nemmeno uno spazio ricreativo qui dentro, fa sì che non c'è una mensa, cioè si va a fare la fila, si prende il proprio vassoio, si va a consumare, probabilmente seduti per terra in qualche angolo del centro. E tende che sono state montate sono per un'emergenza che deve esserci o che già c'è? No, le tende sono tutte in utilizzo e in ogni tenda ci sono 10 persone, che vuol dire di fatto riempirla, tranne un piccolo corridoio centrale, integralmente di letto, grande, non di letto. Questa era una situazione che era stata detta per emergenze future, che in realtà è già utilizzata fino adesso. La capienza dovrebbe arrivare a 1000 persone con queste tende. A noi hanno parlato di una capienza di 960, ma attualmente sono 890 e viaggiamo ad una media vicino ai 900, quindi capirete che 60 persone in più vorrà dire semplicemente che l'undicesima branda, quella che dovrebbe stare diciamo nel corridoio di passaggio, non viene montata. Però è tutto in utilizzo ed è assolutamente sovraccarico, cioè io ho fatto solo una foto, cioè fra un letto e l'altro c'è circa un centimetro di spazio, sono tutti letti a castello. Quelle sono diciamo le condizioni migliori, perché sono quelli dotati di aria condizionata, sono i bungalow che hanno in parte sostituito le tende. Poi ci sono appunto queste tende che almeno hanno il vantaggio di non essere i tendoni che ho trovato in alcuni posti, cioè i tendoni da 100, da 150 persone. Però fate conto che 300 persone alloggiano nei container, direi un centinaio nelle tende e gli altri 500 a vario titolo diciamo nelle strutture in muratura. 80 sono minori non accompagnati, 200 sono fra mamme e bambini sostanzialmente, e gli altri sono adulti. Avete parlato con gli ospiti? Abbiamo parlato con gli ospiti, in particolar modo con alcuni minori diciamo di lungo soggiorno, che erano quelli che ci interessavano di più, cioè quelli che sono qui da 8, 9, 10 mesi. Ma ripeto, non è nemmeno chiaro, adesso devo dire, quali siano i criteri con cui una persona rimane qui dentro 10 mesi e un'altra dopo una settimana che è arrivata esce, perché anche questa diventa una fonte diciamo così potenziale di tensione, perché tu capisci che una cosa se ti dicono guarda c'è una fila, tu sei arrivato e a mano che tu esci. Altra cosa se tu sei lì dentro, nessuno ti dà una data, nessuno ti dà una condizione, ti viene detto semplicemente aspetta, vedi magari quello che è arrivato da 2 settimane che per ragioni che a te non è dato di comprendere immediatamente viene avviato all'esterno e tu rimani, ne arriva un altro e dopo una settimana esce e tu rimani, dopo mesi e mesi che comprende fino in fondo l'esasperazione che poi ti porta anche giustamente a manifestazioni come quelle che ci sono state. Ma io ripeto, molto giustamente, perché questo è un tema che non si può far passare sotto silenzio. Parliamo di ragazzi che vanno dai 15 ai 17 anni, sono quelli che sono qui. Le madri denunciano tempi di permanenza comunque per famiglie con minori abbastanza lunghe, minimo un mese, ma la cosa che mi preoccupa di più francamente sono i minori, non dovrebbero neanche essere qui, sono 78 e alcuni sono qui da 10 mesi, come diceva Paglia, già una permanenza di un mese e mezzo qua dentro è troppo. Le famiglie non hanno una zona privata, sembra scontato ormai perché conosciamo il funzionamento di questo posto, però stiamo parlando di nuclei familiari in mezzo a camerate con un centimetro di spazio. Anche queste sono condizioni non accettabili, che sono gravi a tutte le età, ma chiaramente per le famiglie e per i minori non accompagnati sono ancora più inaccettabili. Chiedo al sindaco, dato che comunque è lui insomma che dovrebbe tutelare questo tipo di situazioni, di provvedere immediatamente, perché non si può accettare una situazione del genere, soprattutto dal punto di vista dei minori e delle famiglie. Non c'è neanche più una biblioteca, ora stanno cercando di attivarsi per uno spazio bimbi, per dei giochi, cose del genere. Noi chiederemo sicuramente di poter fare come a Lampedusa, quando abbiamo mandato dal Consiglio Comunale di Bologna i libri, di poter fare una piccola biblioteca, dare almeno qualcosa per uno svago a questi ragazzi che purtroppo non sono qua per poche settimane, ma sono qua anche per molti mesi. La cosa più grave in assoluto è che se arrivano da minori, magari 17 anni, e poi però passa il tempo e diventano maggiorenni, la procedura come richiedente asilo è completamente diversa, per cui anche questo è molto grave. È necessario che un minore, soprattutto sui 17 anni, inizi la procedura come minorenne.